Fin da quando ero studentessa, ero rimasta affascinata dalle somiglianze tra gli animali dell'arte celtica e lo stile animale dei nomadi eurasiatici. Successivamente, le possibili connessioni con il popolo delle mummie dello Xinjiang avevano ulteriormente stimolato il mio interesse per la cultura celtica. Avevo perciò deciso di esplorare più a fondo gli elementi in comune, indagando sui percorsi occidentali delle donne durante le migrazioni celtiche. I Celti della tarda età del ferro si erano espansi dall'Europa continentale all'Irlanda intorno al 300 a.C., finendo col dominare l'isola, cioè la cultura di Laten emerse tra i Celti che vivevano intorno al fiume Reno nella metà del V secolo a.C., per poi diffondersi nell'Europa del Nord e nelle isole britanniche. Le entità femminili occupano un ruolo prominente e colorito nel folklore irlandese e le storie di regine astute, di potenti dee della natura e di banshee, con le loro urla da giudizio universale, sono davvero irresistibili. D'altra parte, sapevo, per aver studiato la mitologia di molte culture, che malgrado gli abbellimenti e la fantasia, le leggende spesso contengono un nocciolo di verità sugli eventi reali, le credenze e le strutture sociali del popolo che le ha create. Il pantheon delle divinità celtico-irlandesi era dominato da dee, molte delle quali associate con la guerra, come Badb, Morrigan e Nemain, il cui terribile lamento si diceva potesse far morire di paura centinaia di guerrieri. Anu, invece, era la grande madre, dea della fertilità che sembra essersi evoluta in Danu. Il Museo Nazionale d'Irlanda a Dublino offre e conserva una gran quantità di torque d'oro che erano state gettate nelle paludi come offerta alle dee delle acque. L'Irlanda stessa è una dea. Dato il ruolo preponderante delle divinità femminili, è ragionevole aspettarsi che le sacerdotesse ricoprissero un ruolo importante nel sistema religioso celtico, ma come per tutto ciò che è relativo alla preistoria irlandese, esistono pochi reperti e ancor meno racconti scritti. Alcuni autori romani, tuttavia, nominano una casta di profetesse nota come Driaden, una parola che può essere stata la forma femminile di druido. La mitologia irlandese abbonda di esempi di donne forti, le cui personalità furono idealizzate, ma col tempo le storie si trasformarono diffamando le eroine per ammonire su ciò che le donne non avrebbero mai dovuto essere, come era già successo con le Amazzoni nei racconti dei greci. Il personaggio femminile di maggiore importanza nel folklore celtico irlandese è Medb, la regina guerriera. Esistono tantissime versioni delle gesta di Medb nel folklore irlandese, la prima delle quali sembra risalire al VII secolo. Le storie più antiche tendono ad essere più lineari e la regina non manifesta l'appetito sessuale prodigioso e la brama di ricchezza e di potere che le vengono attribuiti nella versione successiva. Alcune storie la celebrano come dea guerriera e la ritraggono con un uccello sulla spalla. Il suo ruolo come dea sovrana indica che doveva proteggere la sua virtù e nel contempo essere estremamente sensuale e sessualmente attiva per assicurare la fertilità della terra. Nelle versioni più tarde, il tono delle storie diventa sempre più censorio e i suoi presunti vizi sessuali sono condannati al punto da venire etichettati come donna determinata, dominatrice e lasciva. Nonostante alcuni sostengano fermamente che Medb non sia mai esistita, a Knocknarea vi è un grande tumulo che si dice essere la sua tomba. Se la leggenda la vuole sepolta lì, è verosimile che questa regina, o comunque una donna di rango molto alto, sia realmente esistita in un qualche momento del passato remoto. Ero curiosa di vedere il tumulo di Knocknarea per vedere se fosse davvero grande come avevo sentito, perché le dimensioni sono importanti nel determinare lo status. Chiunque avesse impiegato tante risorse preziose, tempo e lavoro per costruire un enorme tumulo sepolcrale, lo avrebbe fatto solo per personaggi di altissimo rango e chi altri se non Medb. La tomba di Medb era alta 10 metri e con un diametro di 61 metri si ergeva proprio in cima alla grande collina. Come i greci con le amazzoni, i monaci irlandesi sembrano essere stati sconvolti dalla voracità sessuale di Medb e di altre eroine mitiche, e questa paura delle femmine lascive si riflette in alcuni dei più controversi manufatti recuperati in Irlanda, le Síolann na gCig. Queste pietre intagliate raffigurano orribili donne nude che mostrano gioiosamente i loro genitali rigonfi. Le pietre sono state fonte di litigi e scandali da quando vennero trattate dagli antiquari intorno al 1840, anche perché questi oggetti furono trovati incastonati nei muri di chiese del XII e XIII secolo. Anche se sono state raccolte molte Síolann na gCig, esse sono raramente esposte nei musei e di solito sono state interpretate dagli studiosi come idoli pagani o avvertimenti cristiani contro la lussuria, il peggior vizio femminile dei tempi medievali. Le Síolann na gCig non sono sempre state viste come malevole e nel XIX secolo la gente di campagna le ritenne degli amuleti capaci di proteggere dal malocchio. Il direttore del museo di Dublino nel 1990 aveva tagliato corto sull'interesse per tali sculture. Le Síolann na gCig sono orribili e poco lusinghiere nei confronti delle donne, aveva detto. Erano state rinvenute principalmente in chiese romaniche, quasi sempre collocate nei muri, coricate su un fianco o angolate in modo da accordarsi all'inclinazione del lato spiovente del tetto. Questo mi sembrò strano. Se le Síolann na gCig erano state scolpite per le chiese, perché non erano state poste in verticale? Alcune Síolann sono state trovate anche in Francia e in Inghilterra, e una di quelle inglesi tiene in mano un oggetto circolare che potrebbe essere uno specchio. La presenza di questo oggetto, spesso legato al culto, mi indusse a chiedermi se gli scultori non avessero in realtà in mente la fertilità o la divinazione, invece che la sessualità sfrenata. Pensai anche che quelle figure potessero essere state scolpite molto prima e riutilizzate come pietre da costruzione durante l'edificazione delle chiese. In questo caso avrebbero potuto essere concepite non come un monito per i buoni cristiani contro i mali della sensualità femminile, ma per scopi completamente differenti. È noto infatti che per gli antichi irlandesi la nudità di una donna aveva una grande potenza. Particolarmente interessante è che le Síolann, come Medb, possono essere associate alle donne guerriere. Ritenni che fosse ridicolo considerare le Síolann na gCig un simbolo di depravazione femminile. Sicuramente erano state intagliate molto prima del periodo romanico ed erano state inserite nelle chiese nel tentativo di imbrigliare qualunque potere mitico potessero avere. La loro reale funzione doveva essere stata quella di rappresentare l'onnipotenza femminile. Potrebbero essere state amuleti di fertilità e fecondità, forse calmavano perfino il furore dei guerrieri maschi, e in qualche modo erano donne guerriere o trasmettevano il loro potere alle donne guerriere. Come succede di frequente, i patriarchi avevano fabbricato un nuovo contraddittorio sistema di credenze, convincendo gli illetterati medievali che i doni naturali del femminile erano abominevoli poteri maligni da aborrire. Un altro tipo di figure femminili sovrannaturali, le Binsi o Banshee, come successivamente fu anglicizzato il termine. La Banshee è la fusione di due diversi personaggi del folklore irlandese, la donna Sí e la donna Badb. Le donne Sí sono bellissime giovani che si pettinano i lunghi capelli mentre lamentano ad alta voce l'imminente trapasso di un eroe. Esse facevano parte di un'elite di profetesse sovrannaturali. La maggior parte delle mitiche donne Badb, invece, era composta da orribili vecchie megere che affrontavano direttamente l'uomo condannato. In tempi moderni la Binsi e la Badb si sono confuse per divenire la Banshee, i cui acuti stridori che fanno rizzare i capelli annunciano agli ascoltatori mortali una morte imminente. È ancora associata all'acqua, appare al crepuscolo, al tramonto o a mezzanotte vicino a pozze, laghi o fiumi. Ci si può chiedere se questa rappresenti la memoria culturale delle dee delle acque, così evidente nell'antico Medio Oriente e nell'iconografia dei siti religiosi ittiti. Molte antiche stele e sculture raffigurano donne con in mano vasi da cui scorre l'acqua. A volte la Banshee appare nella guisa di una giovane Binsi a lutto, altre volte le lunghe trecce sono grigie e arruffate e le sue grida acute rivelano il suo dolore. A volte ancora viene vista lavare il suo carico di orribili panni al guado. Se si esaminano le sue qualità distintive, la mitologia irlandese è satura di immagini di donne forti che sono uguali o superiori alle loro controparti maschili. La genealogia dei mitici eroi irlandesi viene sempre tracciata in linea femminile. Ciò implica che le tribù precristiane che crearono e impreziosirono i miti debbano essere state matrilineari. Inoltre, un numero elevato di figure femminili mitiche è associato alle arti della guerra. Oltre alle molte dee guerriere come la regina Medb o la vendicativa Macha, perfino il grande Cuchulainn e altri eroi maschili furono addestrati nell'arte della guerra da donne che è logico presumere erano esse stesse guerriere. È ragionevole supporre che quando i Celti dalla terraferma arrivarono in Irlanda abbiano portato con sé anche le proprie tradizioni religiose. Orribili come sono, le Banshee con il loro dono della profezia, insieme alle misteriose Sheila na Gigg, suggeriscono con forza l'esistenza di una classe di sacerdotesse che sappiamo essere esistita in altre società dell'età del bronzo e dell'età del ferro. Tutte queste circostanze mi convincono che le donne d'Irlanda, durante le oscure età pre-celtiche e celtiche, debbano aver goduto di notevole potere e di grande prestigio. Erano matriarche, sacerdotesse, guidavano i culti religiosi e di fertilità ed eccellevano come guerriere e sovrane. Come per gli irlandesi, i Celti che si erano stabiliti in quelli che ora sono il Galles, l'Inghilterra e la Scozia, amavano dare a molte delle loro dee attributi da guerriere. Branwen, Rhiannon, Arianrhod abbondavano di conflitti e spargimenti di sangue. L'Inghilterra forniva prove affidabili di donne sovrane e leader militari storicamente documentate dagli invasori stranieri che invasero l'isola in tempi antichi. Tacito, lo storico romano del primo secolo, scrisse che i britanni sono abituati alle donne che comandano in guerra e ci lasciò racconti dettagliati sulle gesta di due regine guerriere, Cartimandua e Boudicca. La prima era la regina della tribù dei Briganti, una grande confederazione tribale della Britannia centro-settentrionale. Anche se condivideva il comando col marito Venuzio, Cartimandua deteneva il vero potere nel regno e giocò un ruolo attivo nello scegliere il suo compagno co-reggente. Quando i Romani iniziarono l'invasione, sia Cartimandua che Venuzio videro i vantaggi politici dello schierarsi a fianco dei potenti aggressori e la Brigantia, intorno al 50 d.C., divenne un florido protettorato romano. Tuttavia la regina perse popolarità tra i suoi sudditi quando consegnò il capo della ribellione celtica ai romani, pur avendo egli chiesto asilo alla sua corte. Mentre i briganti continuavano a ribellarsi, i romani furono costretti a fronteggiare una agguerrita vendetta nella parte nord-orientale dell'isola. La regina Boudicca, che il romano Dione Cassio descrisse più di un secolo dopo come altissima, terrificante nell'aspetto, dallo sguardo fiero, dura di voce e con una grande massa di lucenti capelli rossi che le ricadeva fino ai fianchi, alla morte del marito era divenuta capo degli Iceni, in quelli che sono attualmente il Norfolk e il Suffolk. Come i briganti, gli Iceni avevano stretto un'alleanza con i Romani che garantiva loro prosperità e una certa dose di indipendenza. Prima di morire, nel 60 d.C., il marito di Boudicca, il re Prasutago, destinò metà del suo patrimonio personale a Roma, sperando con questo gesto di provare la loro fedeltà e di placare Nerone. L'imperatore tuttavia non volle accontentarsi di mezza fortuna quando poteva averla tutta, in particolare se tali ricchezze appartenevano a una donna, per cui ordinò ai suoi comandanti di sequestrare il patrimonio di Prasutago e di annettere tutti i territori degli Iceni. Quando Boudicca si oppose fieramente, i soldati romani fustigarono la regina e stuprarono le sue due figlie. Furiosa oltre ogni immaginazione, Boudicca prese il comando delle sue truppe icene e si unì ai Celti trinovanti del sud. Come riporta Tacito, insieme formarono un immenso esercito di donne e uomini. Egli cita anche le parole della regina: «Non combatto per il mio regno e per la ricchezza, sto combattendo come una persona qualsiasi per la perdita della mia libertà, per il mio corpo ferito e le mie figlie violate». I ribelli britanni distrussero la città romana di Camulodunum e annichilirono la nona legione. I romani non arruolavano donne come invece facevano gli Iceni e altre tribù. Dopo diverse vittorie, la regina, ahimè, fu sconfitta e, secondo i resoconti, si suicidò con del veleno. L'avvento del cristianesimo assestò il colpo fatale ai culti dei druidi in Britannia, Irlanda e in gran parte dell'Europa. Le donne celtiche potevano essere proprietarie di grandi ricchezze personali, un'ipotesi che è stata suffragata da ritrovamenti archeologici risalenti a partire dal VI e dal V secolo a.C. La Francia orientale, la Germania sud-occidentale e altre aree dell'Europa celtica sono punteggiate di tombe dell'età del ferro in cui furono sepolti sovrani, sia maschi che femmine, con ricchi tesori di offerte funebri. Anche le donne vichinghe avevano un ruolo molto attivo. Con la gran parte della popolazione maschile via per mare, per lunghi periodi di tempo le donne vichinghe godevano di responsabilità e libertà insolite per le donne della loro epoca. Potevano divorziare dai mariti quando volevano, possedevano proprietà e beni e condividevano il bottino dei loro uomini quando tornavano a casa. Le donne vichinghe indossavano anelli da collo, le torque, che ne definivano lo stato sociale, d'oro ed argento. La varietà e il valore dei corredi funebri delle donne vichinghe di solito superano quelli degli uomini. Molte mogli controllavano anche gli affari commerciali della famiglia. Circa il 25% delle tombe femminili, una percentuale più elevata di quella maschile, conteneva bilance e pesi utilizzati per misurare le monete d'argento persiane, la principale merce di scambio cercata dai vichinghi in Medio Oriente. Le donne venivano anche sepolte con chiavi, serrature e portagioie, suggerendo che fossero responsabili dei beni della famiglia. Per divertirsi le donne competevano, alla pari con gli uomini, nello sport della glima, un tipo di lotta ancora popolare al giorno d'oggi in Islanda. Un'antica saga tramanda uno di questi incontri tra un uomo e una donna che durò per giorni prima di finire in pareggio. Alcune donne erano probabilmente anche guerriere, dal momento che vennero sepolte con un arsenale di armi per combattere nell'altro mondo. Con tali tradizioni di donne forti, non sorprende che, come per gli antichi Celti, tra le divinità dei vichinghi vi fossero molte figure femminili, potenti, spesso associate all'arte della guerra. Freya e Frigga sono le dee sovrane nel pantheon scandinavo. Ci sono molte altre dee, ma le figure femminili più conosciute della mitologia scandinava sono sicuramente le valchirie. A queste fanciulle bellissime, sui loro cavalli alati, pesantemente armate, spetta il compito di decidere chi tra i vichinghi che muoiono in battaglia sia abbastanza eroico per essere ammesso alla mensa di Odino. I miti di creazione dei vichinghi indicano come antenati Odino e Frigga, che si diceva venissero dall'Asia Minore, terra di popoli dalla pelle scura. Anche alla celebrata Brunilde, dalla corazza e dall'elmetto cornuto, che figura così spesso nelle saghe dell'antica Scandinavia, così come nel Nibelungenlied tedesco, ci si riferisce a volte come una valchiria. In entrambe le tradizioni è una potente guerriera che fa voto di sposare solo l'uomo che saprà superarla in forza. La fortuna dei vichinghi volse al termine nel XII secolo, quando una nuova e potente forza dell'Est iniziò a interessarsi all'Ovest. Genghis Khan, uno dei più grandi conquistatori che il mondo abbia mai conosciuto, prese il controllo dei porti sui fiumi Volga e Don, un tempo controllati dai vichinghi. La storia segreta dei mongoli inizia con la vicenda di Alan Ko A, antenata mitica del popolo mongolo. Nel 1206 Genghis Khan era divenuto il sovrano di tutti i mongoli. Ebbe sempre al suo fianco la moglie Börte, figlia di un influente capo tribù, da lui tenuta in grande considerazione. La storia segreta descrive il suo amore e ammirazione per lei. Quando vidi sua figlia, vidi una fanciulla con la luce nel volto e il fuoco negli occhi, dice. Sia durante tutto il regno, sia sua moglie che la tenace madre furono tra i suoi consiglieri più fidati, perché loro erano le voci della ragione che calmavano la sua natura impulsiva nelle situazioni più difficili. Dopo la morte di Genghis Khan nel 1227 e in modo intermittente nell'arco degli anni, furono nominate delle reggenti Khatuns mongole che godettero dei diritti e privilegi della sovranità sull'intero popolo mongolo. La loro fu una forza stabilizzante che mantenne unita la nazione. Queste regine erano donne guerriere, brillanti politiche, astute donne d'affari, che possedevano immense proprietà, altamente considerate per la loro profonda saggezza. Dopo la morte di un Khan, potevano guidare le tribù fino alla scelta del successivo. Quando il Gran Khan Mandagol nel 1467 morì, la sua giovane moglie Manduhai assunse il controllo del re e scese in guerra contro la tribù Oirat, infliggendole una sconfitta decisiva. Negli anni seguenti le sue gesta furono apprezzate come quelle dell'eroica madre di Gengis Khan. Manduhai, da guerriera, condusse i suoi leali soldati in battaglia, riuscendo a rovesciare definitivamente l'orda Oirat, consentendo ai mongoli di riacquistare la supremazia anche nelle regioni orientali. Il nome e le gesta di Manduhai sono entrati nella leggenda. Gli storici occidentali hanno descritto la società mongola come estremamente crudele e parossisticamente patriarcale, una società in cui le donne semplicemente non esistevano. I racconti della storia segreta dei mongoli, invece, ci narrano come senza l'astuzia, l'abilità diplomatica e l'istinto di sopravvivenza della madre di Gengis Khan e di sua moglie, l'impero mongolo non sarebbe mai esistito. Gli indizi forniti dai reperti disotterrati, messi a confronto con le pratiche rituali e le leggende popolari, tuttora molto vive, mi hanno gradualmente consentito di comporre un ritratto complessivo delle donne guerriere. Anche se è quasi impossibile determinare con esattezza l'origine dei riti o come si siano evoluti, la mia ricerca mi ha portato a credere che si suddividano in due categorie principali. Uno, i rituali per la fertilità, di primaria importanza in questo mondo. E due, i rituali di sepoltura, fondamentali per poter far accedere i defunti all'aldilà. È stata una grande fortuna per me che gli antichi nomadi si portassero i loro beni nella tomba. Il loro intento era di poter ritrovare nell'altro mondo tutto ciò di cui avevano goduto in vita, fornendoci in tal modo la possibilità di studiare le loro abitudini quotidiane. Naturalmente è pura fortuna che i pesanti terreni alcalini di Pokrovka abbiano conservato così bene ossa e bronzi, fornendoci un'immensa varietà di manufatti e consentendoci di individuare i differenti status delle donne e degli uomini sauromati e sarmati. Molti dei motivi dell'enigmatico stile animale e delle scene sui petroglifi, proprio dei Saka, dei sauromati e dei sarmati, sono presenti anche nell'arte dei Celti dell'Europa occidentale. Questo riscontro mi ha attirata lontano dalle steppe dell'Asia centrale e dentro ai miti e alle leggende celtiche di eroine nascoste e di donne potenti, presenze ignorate, senza nome, a volte diffamate, ma sempre forti, spesso ricche di oro e sempre di conoscenza. Sia che avessero dominato sui campi di battaglia, agito come veggenti o governato il focolare, tutte avevano avuto ruoli cruciali per la sopravvivenza delle tribù. Tra i popoli delle steppe, la maggior parte delle nostre antiche eroine apparteneva al focolare, il luogo davanti a cui i re prestavano giuramento, dove venivano celebrati i riti di passaggio e avvenivano nascite e morti. Le custodi del focolare erano anche le custodi delle tradizioni e della cultura, perché nella società preistorica, senza scrittura, le tradizioni, le storie tribali e le preziose genealogie dovevano essere imparate a memoria da ogni nuova generazione. Le donne del focolare curavano gli ammalati e, elemento cruciale per la sopravvivenza del clan, preparavano e distribuivano il cibo, avendo cura che ognuno ricevesse la sua parte. Un compito non trascurabile, quando le vivande di tutta la tribù erano razionate, talvolta in porzioni anche molto piccole. Per centinaia di generazioni, la forza e la saggezza delle donne senza nome del focolare hanno vigilato sul potere intrinseco attraverso il quale le famiglie, i clan e le tribù non solo sono rimasti in vita, ma si sono allargati esponenzialmente, facendo dei nomadi una potenza riconosciuta in tutta l'Eurasia. Gli scavi di Pokrovka hanno riportato alla luce le prime sacerdotesse sauromate che ci hanno lasciato i loro nudi specchi divinatori e la singola conchiglia che utilizzavano per vaticinare per le loro famiglie stesse. Durante i successivi 150 anni, la crescente importanza dell'opera delle sacerdotesse fu rappresentata da un'elaborata miscellanea di vestigia e beni mobili, impreziositi d'oro, per rappresentare la potenza del sole. Da quel periodo in poi, La storia delle immagini, raffigurate sugli oggetti delle sacerdotesse, non solo espresse le loro credenze, ma quelle dell'intera tribù. Le immagini di potere si basavano sugli animali selvatici, cervi, lupi e grandi felini, e sulle combinazioni ibride che dettero forma ai mitici grifoni. Abbiamo trovato questi animali magici sui petroglifi, stampati in piccole placche d'oro, incisi nel legno e dipinti e tatuati sui corpi. Le sacerdotesse erano divenute le veggenti che profetizzavano durante i rituali religiosi, le guide nei riti di passaggio e le guaritrici dei corpi, della mente e dello spirito. Senza dubbio occuparono uno dei ruoli più importanti e riveriti all'interno delle antiche comunità. Inoltre, essendo in grado di divinare e di fare profezie, divennero fondamentali anche per le sorti politiche ed economiche delle loro tribù. I primi sciamani furono donne. Le radici dello sciamanesimo infatti affondano nella Siberia paleolitica, dove la parola Utigan, nella sua forma più ricorrente, si riferiva solo e sempre a una donna sciamana. In stato estatico, le sciamane comunicavano con gli dei e gli spiriti per curare le malattie umane e per ottenere una conoscenza sovrumana, e usavano l'aiuto di alcuni animali per recarsi nell'aldilà. Molto prima che la scrittura facesse la sua comparsa, con gli strumenti allora disponibili, fu scolpito un linguaggio iconico, usato anche per incidere sull'ardesia nera a Tamga Ali, le raffigurazioni magiche delle sciamane nell'atto di danzare o inseminare ritualmente un magico cavallo cornuto. Con l'espandersi della gerarchia delle sacerdotesse, le loro mansioni divennero sempre più importanti. Accuratamente interpretate, le bardature della sepoltura di Tilli Atepe rivelano che le donne guerriere svolgevano anche le funzioni di sacerdotesse e di divinatrici per i capi tribù delle grandi confederazioni. Spade e pugnali rituali erano splendidamente decorati in una profusione di oro, di simboli di fecondità. Cavalli alati in parata, leopardi delle nevi, alberi della vita, uccelli e signore degli animali. In reperti provenienti dalla Cina, l'immagine guerriera della greca Atena aggiunge un tocco esotico mentre accompagna le figure di eunuchi alla guida di carri. Vista l'incredibile ricchezza d'oro e di icone araldiche che evocano poteri soprannaturali, basta poco per comprendere che l'autorità di queste guerriere sacerdotesse fosse pari a quella dei capi tribù. Le usanze e i corredi funebri di Tilli Atepe, le tombe delle sacerdotesse sauro-sarmate nelle steppe degli Urali, quelle delle donne Saka del Tien Shan e dei monti Altai e le donne mummificate sepolte nel deserto del Taklamakan rivelano inoltre l'esistenza di notevoli scambi interculturali. Sappiamo per certo che le donne guerriere sono esistite storicamente. Molte delle figure femminili trattate in queste pagine sembrano essere state solamente guerriere, senza compiti sacerdotali, ad esempio Tomiri, citata dalla letteratura antica per aver ucciso un grande re persiano, Ciro, appunto. I racconti greci sulle Amazzoni probabilmente non furono ispirati solo dalle storie dei sauromati euroasiatici, ma anche dal Nord Africa, dove prevaleva il matriarcato e l'élite delle truppe reali fu a lungo femminile. Due delle icone che hanno rappresentato in modo significativo il destino delle donne nel corso dei secoli sono i copricapo femminili e le Sheila na Gigg irlandesi. I massicci copricapo decorati in modo raffinato, il peculiare segno di riconoscimento che ha contrassegnato la nostra ricerca delle donne di alto rango, sono uno degli elementi culturali più antichi mai trovati. Gli elaborati copricapi sono l'oggetto chiave per indicare rango e funzione rituale e diventano l'emblema di tutte le donne di rango elevato, mongole fino alle montagne di Pasirik nella Siberia meridionale, dalle guerriere sacerdotesse del Kazakistan fino alle mummie dello Xinjiang in Cina. In Europa, intorno al 1400, il copricapo conico subì una drammatica metamorfosi, trasformandosi nel nero cappello a punta, con il quale la cultura patriarcale identificò le streghe, donne che furono punite e arse vive a rogo per trasgressioni immaginarie. Il secondo straordinario esempio di questa trasformazione sono le Sheila na Gigg, create nell'antichità della preistoria come potenti immagini di fertilità. Qualche secolo prima del XIX secolo, quando furono citate per la prima volta nella letteratura, vennero assurdamente incorporate nei muri delle chiese come epitome della lussuria, un vizio ovviamente provocato dalle donne. Da quel periodo in poi furono considerate solo immagini erotiche imbarazzanti. Nello stesso clima culturale, i monaci irlandesi che redassero le leggende popolari trasformarono le forti donne guerriere in donne licenziose o in fragili eroine, unicamente in grado di suicidarsi per salvare la propria minacciata virtù. Queste due icone rivelano la transizione avvenuta con il passaggio da un potere egualitario al dominio patriarcale di clero e sovrani. Le donne furono epurate da tutte le posizioni di influenza e potere di cui avevano goduto per millenni e vennero relegate ai gradini più bassi della scala sociale, spesso calunniate o rappresentate come forze sataniche. Nell'antica Grecia il mito delle Amazzoni, iperboliche caricature di donne indipendenti, fu alimentato dagli uomini che attinsero a piene mani dalle leggende di donne guerriere dell'Eurasia, Anatolia e Africa. Secondo i greci, le Amazzoni lasciavano le loro case per combattere, si tagliavano un seno per scoccare meglio le frecce e, quanto è peggio, assassinavano i loro figli maschi. Malgrado questa maschera di invincibilità, la loro sfida alla supremazia maschile veniva punita con lo stupro o la morte, verdetto emanato non sorprendentemente dagli dei maschi dell'Olimpo greco. Analizzando l'oggettistica e le raffigurazioni in pietra, riusciamo a intravedere temi che riguardano la loro creatività, la capacità di autoespressione e la fiducia in se stesse. Inoltre, studiando la trama offerta dalla mitologia e dalla letteratura, notiamo il perdurare di forti personaggi femminili che ebbero rango, potere e posizioni strategiche. Possano ovunque le donne trovare il loro posto in questa misteriosa e grandiosa storia e possano alimentare e proteggere, come nell'antico passato, l'alleanza per la vita. Fine.